Spot. Una vita che... cappello, mi fa un po' di fuoco. Fallo casello sopra quello che resta, filo di dollo come ossa di pollo. Fallo casello, una merda di vita, tagliami il colpo, sanguinare all'uscita. Peccato vecchio, dargli un metro di cazzo. Peccato vecchio, dargli un metro di cazzo. Peccato vecchio, dargli un metro di cazzo. Peccato vecchio, dargli un metro di cazzo. Metro di cazzo! cammino mentre anelo un bel bambino, c'era un prezzo crocifisso, paradiso, posto fisso, un chiodo fisso.